Emily Wood, and Steve McQueen. The revolution ain't gonna star Bullwinkle and Julia either. No, no. Uno degli argomenti che ci ha interessato maggiormente, almeno personalmente, della guerra di Facebook, di cui parliamo oggi con una componente del gruppo di Ippolita, è la questione del linguaggio e del corpo all'interno dei social network, delle reti sociali. Chiaramente il linguaggio, sappiamo benissimo che insomma è un aspetto molto importante, critico della costruzione sia dell'esperienza umana che delle relazioni sociali, e in qualche modo il lavoro che fanno i social network sul nostro linguaggio, uno per tutti, insomma la limitazione in 140 caratteri che in qualche modo Twitter ci impone per quello che stiamo per comunicare alla nostra rete sociale, sostanzialmente cambia anche il modo in cui comunichiamo, quindi il linguaggio, e cambia anche il modo in cui il nostro corpo si rapporta alle persone con cui entriamo in rete, con cui facciamo rete, almeno attraverso i social network. Un aspetto interessante di questo paragrafo, insomma, che mi ha molto presa, è la questione di come in qualche modo stiamo dando una predominanza ad uno dei nostri sensi, cioè appunto alla nostra vista, che è quella che in qualche modo ci, davanti al computer, ci permette di costruire e di alimentare giorno per giorno con i nostri dati, i nostri gusti, i nostri mi piace, la nostra rete sociale, a svantaggio dei nostri altri sensi. Una trasformazione che non è soltanto una trasformazione teorica, ma che è una trasformazione che ha anche delle conseguenze nella vita reale. Che ci dice Ippolita riguardo questo? Sì, qui stiamo parlando dell'occhio tattile, stiamo parlando del dominio dell'occhio e del fatto che esercitando l'occhio noi cominciamo a mettere da parte il resto. Si tratta di un esercizio smodato, un esercizio con il quale noi conosciamo l'altro, ossia l'infinito altro da noi, non più attraverso l'odore, attraverso la sua pelle, attraverso le migliaia di stimoli che possiamo avere da un'altra persona, ma esclusivamente attraverso l'occhio, per cui l'emozione passa attraverso ciò che noi mostriamo agli occhi degli altri e che ci appare e che si cala sotto il nostro sguardo. Questo sì, modifica anche il nostro corpo, perché mentre attraverso l'occhio noi abbiamo l'illusione di fare delle ricerche che sono infinite, che si estendono e che si approfondiscono, in realtà con il resto siamo fermi su una poltrona. Nella vita reale, se noi dovessimo, ci sono delle limitazioni che sono anche imposte, diciamo, dalla legge, che stabiliscono una norma di ciò che noi possiamo fare. Vi faccio un esempio pratico. Se fosse disponibile un occhio cibernetico per le persone che sono cieche e che gli potesse permettere di vedere, quest'occhio sarebbe fasato su un livello di vista pari a quello degli altri. Cioè non sarebbe possibile montare uno zoom su quell'occhio, perché questo non risponderebbe più a una norma. Quindi dal punto di vista del corpo subiamo una serie di limiti, mentre invece dal punto di vista della rete, dal punto di vista del nostro sguardo sulla rete, i limiti non ci sono, possiamo fare pressoché qualunque cosa, certo sempre tenendo conto dell'aspetto dell'occhio, quindi esercitando solo tra i sensi quello della vista. Questo è un problema che, come dire, del quale si è parlato molto anche rispetto, non so se vi ricordate Pistorius, quel corridore che aveva le gambe di titanio, no? Che sembrava non potesse partecipare alle Olimpiadi, quantomeno quelle dei normodotati. Ecco, io credo che su questi paradossi noi dovremmo cercare di interrogarci, perché così come noi ci stiamo trasformando profondamente a livello proprio antropologico sulla rete, dovremmo cercare di far andare di pari passo anche le mutazioni del nostro corpo, per cui interrogarci anche su, il femminismo questo lo fa abbondantemente, sulle questioni della transessualità, per esempio, dove anche lì le trasformazioni sono molto limitate, anche proprio interno a limiti di legge, per cui non c'è un'evoluzione vera e propria, che è sociale, che è antropologica, che è culturale, mentre invece dal punto di vista della rete siamo di fronte proprio al Far West, è possibile tutto. Love is the answer. Well, what the fuck is the question? Question, question. Let me know. Check, check. One, two. Let's go. Let's go. L-O-V-E. Hell no, it isn't easy. Temp rising, breathing faster. I can't get no easy answers. Study up and read the chapters. I can't get no easy answers. Ain't the answer, set a form of love through the issues. But was it real or was it superficial? If it's really, whether emotional abuse or if they bruise or hit you, would you be confused or choose a looser chip tooth? Why is it needs a ring in city hall, papers to prove official? Is it something you falling or a thing that soothes and lifts you? Define gravity, but rather than the ladder, we get Pat Benatar's battlefield. Where's the seminar to help a heart that shattered heal? Or rally up and chant for nation states to hate, to reconciliate with two people who each other can't? Is it chemistry? Cause if the recipe is off, I leave you saltier than MSG. We got sparks like a finger in the socket by mistake. Is it the opposite of fear or opposite of hate? Is your guarded with your life and locked up in a safe? If it's free, why you feeling trapped and plotting your escape? Searching for greener pastures. I can't get no easy answers. Caught up in the heat of passion. You can't get no easy answers. Turn into complete disaster. I can't get no easy answers. Somebody deceive the masses, cause there ain't no easy answers. Supreme like Coltrane, a no-brainer. Do you try to own it or keep it open with no hang-ups? Is it a baby in the mother's arms? Or maybe it's the way you got me open with your southern charm. No ordinary. Another song by Sade, sweet as agave. This romance is slow dance, but what about agape? Is it a verb or a noun? While some disturbed, I prefer her and wish that we were burned to the ground. Is it only in between the sheets? To me, it's only true if I'm told when I got food between my teeth. That's real. Do you believe in soulmates and mating souls? Why so many relationships just fill a gaping hole? Instead of reflect, elevate and grow, can you truly love another if you relegate your goals? I heard it's breaking all the chains, take away the pain, living flying higher than a thousand paper cranes. Temp rising, breathing faster. You can't get no easy answers. Study up and read the chapters. I can't get no easy answers. Somebody deceive the masses, cause there ain't no easy answers. Yup, it won't freeze and captures. I can't get no easy answers. Una delle caratteristiche descritte da Ippolita, insomma, che ci sono anche abbastanza lampanti, chiare davanti quando accediamo a un social network o utilizziamo dei servizi gratuiti come può essere Google per ricercare appunto qualcosa che ci interessa in rete, o Facebook piuttosto che Twitter quando vogliamo creare la nostra tra virgolette rete sociale, sono servizi gratuiti, quindi ci vengono proposti come dei servizi per i quali noi non dobbiamo assolutamente fornire nemmeno un centesimo, e ci danno un'idea di partecipare a un gioco, a un servizio sulla rete che non fa parte di quello che è il mercato del capitalismo. Noi siamo fuori, Facebook non fa parte di questo, non ci chiede di dare un soldo per registrarci, tutto è gratuito, tutto quello che facciamo, postiamo, uploadiamo è assolutamente gratuito. Ma in realtà appunto Ippolita ci spiega molto bene nell'acquario di Facebook che non è affatto così e che questi servizi non sono affatto gratuiti. Cercare di comprendere, grazie appunto alla componente di Ippolita che è qui con noi, che ci sta raccontando il libro, in qualche modo ci sta spiegando anche dei concetti che non sono assolutamente facili e intuitivi da capire, ci può raccontare invece che cosa c'è dietro questi servizi gratuiti. Ci troviamo di fronte a un nuovo tipo di capitalismo, un capitalismo in cui la merce sono le relazioni tra le persone, in cui la merce sono le informazioni che stanno attorno alla relazione. Tutto questo sembra immateriale, ma in realtà è molto concreto. Tutto questo fonda una mercificazione, un profitto enorme, che fa fatturare i fantastilioni di Paperon de Paperoni a, come dire, i grandi magnati dell'information technology, e noi dobbiamo esserne consapevoli. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che questo tipo di capitalismo non ha ancora delle regole, perché se vale per noi come movimento che la soggettività arriva alle cose prima delle norme, questo vale anche per il nuovo tipo di capitalismo che noi andiamo descrivendo, cioè loro sperimentano, fanno delle cose che verranno forse successivamente normate. Per ora le norme sono pochissime. Questi signori violano costantemente l'antitrust, ci sono guerre di ogni genere che riguardano come dire, il mercato finanziario e non finanziario di come dire, questi grandi big. La questione è che la cultura che soggiace a queste sperimentazioni è una cultura che si fregia della libertà. Che si fa il libro, parliamo dei right libertarian, cioè dei libertari di destra, che poi noi abbiamo deciso di tradurre con libertariani. Queste persone ritengono che non debba esserci nessuna barriera e nessuna regola di fronte all'espandersi del mercato, che di fronte all'individuo non ci devono essere limiti, non ci devono essere recinti di fronte alla possibilità di accumulare denaro, perché per loro la libertà sta esattamente in questo, nella meritocrazia del singolo individuo e nella possibilità di accumulare denaro. Ovviamente poi nel libro questo è approfondito anche storicamente, perché ci sono, come dire, sia dei filosofi europei e americani di riferimento, ma poi ci sono anche dei personaggi importanti come Peter Thiel, che è il fondatore di PayPal, che è stato uno dei primi finanziatori di Facebook, e che credono proprio nella possibilità che le tecnologie facciano fare anche un salto evolutivo all'essere umano, cioè loro ritengono che di poter plasmare, diciamo, l'uomo nuovo attraverso l'uso della tecnologia. In questo momento noi vediamo soprattutto plasmate tante menti senzienti, ma senza dubbio loro sono interessati anche a coloro che sfuggono alla massa, e Peter Thiel questo lo dice molto chiaramente: noi non vogliamo i migliori di Stanford, noi vogliamo quelli sbattuti fuori da Stanford perché troppo intelligenti, perché troppo ribelli. Per cui se da una parte vogliono una grande massa senziente educata all'uso delle tecnologie così come è educata in questo momento, dall'altra vanno anche alla ricerca invece di coloro che si discostano dalla massa, dal gruppo, e che insomma loro hanno cominciato a conoscere attraverso proprio gli hackers, attraverso, come dire, la figura di questi solitari nerd che sapevano fare delle cose straordinarie. da qui in avanti si è creata una sorta di filosofia del suprematismo nerd, per cui del fatto sulla quale essenzialmente l'uomo nuovo dovrebbe proprio trarre le proprie origini. Are you recording me? Oh. I can't hear the snare. Count me in. Twitter. Where do I go when I don't have a friend? Where do I go at another day's end? Nobody loves me, somebody loves me on Twitter. I think I'm a big, big loser. Then I go to my computer, turn it on, and I feel grand, all because of Twitter. Direct message me, please, please message me, or at least reply to my Twitter. Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, Twitter. Abbiamo già parlato della questione della promessa della totale libertà, dell'assoluta libertà che la rete in qualche modo da quando è diventata parte della nostra vita quotidiana ci aveva fatto, e soprattutto della straordinaria libertà che i social network ci dovrebbero dare, fornire, di essere quello che siamo assolutamente liberamente, senza pregiudizi, senza differenze di genere, senza nessuna di quelle barriere che invece nella vita reale incontriamo. E in qualche modo anche parlavamo nella scorsa puntata della questione della tecnologia, anch'essa c'era stata proposta come qualcosa di assolutamente neutro e assolutamente in grado di liberare totalmente tutte le nostre capacità, di darci un'estrema libertà. In questa, diciamo, mitologia che, come sappiamo, nell'acquario di Facebook ce lo spiega anche molto approfonditamente, che sappiamo non sia reale, viene fuori anche la figura mitologica degli hackers, prevalentemente, anzi quasi esclusivamente, ne parlavamo prima insieme, uomini bianchi, occidentali, che sono diventati appunto in qualche modo i miti capaci, questi personaggi mitologici capaci di fornirci questa libertà, di creare programmi, di creare codici e di trasformare la tecnologia proprio per garantirci questa libertà. Ma Ippolita ci racconta anche un'altra versione di questo mito degli hackers, ce ne vuoi parlare? Sì, noi parliamo un po' anche del lato oscuro degli hackers. C'è da fare una premessa che alcuni di noi sono degli hackers, per cui insomma ne possiamo parlare male a ragione del fatto che nel nostro gruppo insomma abbondano dalla nascita, dal primo libro. Perché a un certo punto ci siamo dovuti dire sì, però che cos'è che accomuna Steve Jobs a Zuckerberg, al ragazzo grasso di Megavideo, a Sergey Brin e Larry Page, che sono degli hackers e che soprattutto sono degli amanti esagerati della meritocrazia, del culto dell'eccellenza. Questo culto dell'eccellenza è ciò che a noi fa pensare al mito del West, all'uomo bianco col fucile sulle spalle, per cui al fucile si è sostituito il codice, si è sostituita la macchina, ma il mito del vecchio West è più che vivo, insomma, è più dispotico che mai. Quindi, parlando di hackers, abbiamo cominciato a rivedere un attimo l'evoluzione di quelle che erano, diciamo, la rivincita dei nerd, per cui del ragazzo sfigato con gli occhiali e la calcolatrice, che assurge invece a paladino della libertà d'espressione, no? Se pensiamo ad Assange, questa cosa diventa quasi parossistica, no? Per cui c'è Assange chiuso insieme a Lady Gaga che parlano della libertà di pensiero, insomma, quanto di più ridicolo si possa immaginare. Eppure ancora una volta riponiamo delle speranze, no? in questi nerd che, se da una parte creano un potere dispotico, dall'altra invece sono quelli che potrebbero insegnarci qualcosa. Dobbiamo cercare di capire come relazionarci con i tecnici, dobbiamo cercare di sviluppare insieme a loro anche una nuova cultura dell'informatica, dobbiamo mettere insieme le nostre competenze, dobbiamo cercare di acquisire consapevolezza, di acquisire capacità d'uso e dobbiamo farlo anche perché altrimenti questo meccanismo ci schiaccerà e non è nostra intenzione farci schiacciare, assolutamente. La tecnologia deve essere un qualcosa che investe il nostro aspetto libidico, qualcosa che investe l'aspetto del nostro desiderio, e quindi vanno ripescati gli hacker anche a forza e vanno insomma ricondotti su un piano che è interlocutorio, per cui non mi interessa che il manipolo degli Anonymous faccia dei grandi gesti eclatanti di libertà. Questo lasciamo agli ascoltatori deciderlo. Non mi interessa che qualcuno faccia delle azioni per me. Mi interessa imparare a farle da sola, queste azioni. So vi volevo leggere un estratto da un libro di Virginie Despentes che si chiama Apocalypse Baby, che tratteggia proprio la figura degli hacker in maniera decisamente torbida. Dice: l'equipe di Rafik non mi è mai piaciuta. Il tono arrogante, il vocabolario criptico, quella riservatezza che rimanda più a un complesso di superiorità che a un atteggiamento di timidezza. Non mi piacciono l'ostentata vivacità dei colori delle loro magliette, né le montature dei loro occhiali. Il loro modo di fare spirito non mi diverte, mi infastidiscono le loro osservazioni puntualmente razziste, che poiché sei politicamente corretto sei stato tu a interpretare male, quando sono incapaci di vedere un nero, un cinese, un indiano, un arabo senza ridurlo immediatamente a una razza. Nell'equipe di Rafik, in genere, sono per il liberismo, allegramente pro-americani, pronti a diventare pro-cinesi, in tutto sul tono di chi non teme di affermare le proprie opinioni. Sempre dalla parte del potere, si credono sovversivi d'avanguardia. La Francia di cui parlano mi lascia perplessa, una Francia dove collettivismo e bolscevismo sarebbero le madri di tutti i vizi, spietatamente vegetariana, fatta di orge interrazziali dove ognuno incula il suo prossimo, agitando lo stendardo sandinista. Quanto al coraggio di dire ad alta voce quello che nessuno è capace di dire, sono giovani che non riescono neanche ad articolare la parola straordinari quando passano tre notti di seguito al piano terra. E quando vengono redarguiti, la scintilla di odio che si accende nei loro sguardi si farà incendio solo il giorno in cui la piromania entrerà a far parte dei programmi scolastici. Ce l'hanno con chi sciopera, con chi insorge, con gli artisti, con gli stranieri, ce l'hanno coi vecchi, con gli impiegati statali, con lo stato assistenziale, senza però sentirsi a disagio quando vanno a riscuotere il sussidio per l'affitto. Insomma, questa è un po' l'idea che si è fatta Virginie Despentes degli hacker. E in effetti è un'immagine molto diversa da quella a cui siamo abituati invece nel movimento, perché gli hacker sono quelli che c'erano a Genova, sono quelli che c'erano nei centri sociali e ci sono ancora, sono quelli da cui abbiamo imparato a usare Linux, sono quelli che stavano in radio con noi e che ci stanno ancora. Però è vero che questi hacker di cui parla Virginie Despentes esistono, ci sono, sono sempre di più e sono nelle sale di comando e sono nelle sale dei bottoni e lavorano per costruire il mondo dorato dei social network, il mondo dorato di Google, e dobbiamo capire che dobbiamo averci a che fare con queste persone perché hanno un potere enorme nelle loro mani e non possiamo far finta di vedere soltanto i prodotti che costruiscono e di non vedere invece la cultura che sta poi negli uomini che li hanno progettati questi sistemi. Rafik li tratta male, li paga male, non li ringrazia, non li incoraggia. Rafik li tratta come amano essere trattati e in cambio lo rispettano e lavorano duro. Sono sprezzanti con chiunque non faccia parte della setta del piano terra e noi del primo piano abbiamo finito col fare nostra l'idea che apparteniamo al passato. It's a clear, it's a clear, it's a clear, it's a clear, it's a clear, it's a clear, clear signal from Cairo. Calling me back to your arms, calling me back to your arms, calling me back to your desert winds are strong, but they're not strong enough. Love my life. Desert winds are strong, but they're not strong enough. Baby doll. It's a clear, it's a clear, it's a clear, it's a clear, it's a clear, clear signal from Cairo. Calling me back to your arms, calling me back to your arms, calling me back to your desert winds are strong, but they're not strong enough. Love my life. Desert winds are strong, but they're not strong enough. Baby doll. Da appassionata di fantascienza, spesso e soprattutto nella lettura di questo libro che stiamo presentando, scritto dal collettivo Ippolita nell'acquario di Facebook, mi sono ritrovata a chiedermi, appunto leggendo questi libri di fantascienza, come si sono sentite le persone nel passaggio, nell'era di passaggio, negli anni di passaggio da una società come era conosciuta prima a una società invece in cui tutto è cambiato, le macchine hanno preso il controllo, le cose sono completamente diverse, eccetera, eccetera. E in qualche modo nell'acquario di Facebook ha contribuito per quanto mi riguarda ad una consapevolezza maggiore rispetto al fatto che noi siamo in quell'epoca di passaggio, noi siamo in quella fase cruciale, estremamente importante, in cui l'utopia delle macchine che ci aiutano, che trasformano in senso positivo la nostra vita, che allargano i nostri orizzonti, che ci permettono di comunicare, eccetera, diventano invece il contrario. Quindi l'utopia diventa una distopia. E io penso che l'importanza di questo libro e anche uno dei motivi per cui, una delle ragioni per cui ne parliamo, è che dobbiamo essere più consapevoli, soprattutto noi donne, dobbiamo essere più consapevoli del fatto che siamo proprio in quest'epoca e quindi è in questo momento che la nostra consapevolezza deve aumentare. Sì, noi abbiamo citato due testi di fantascienza in questo libro, che sono Il mondo nuovo di Aldous Huxley e Il grande fratello di George Orwell. Sono due testi di fantascienza massimamente conosciuti dal pubblico. In realtà anche noi siamo degli amanti della fantascienza, ovviamente. Non possiamo che ringraziare tutti gli autori che ci hanno fatto desiderare di conoscere meglio le tecnologie e che ci hanno poi dato anche là per scrivere questi saggi. Chiaramente, come dire, tutti conoscono Matrix. Una parte di Matrix in fondo è già qui, si sta svolgendo sotto i nostri occhi. Le macchine stanno occupando sempre più spazio nelle nostre vite, stanno come costruendo un sovramondo, un iperuranio nel quale noi viviamo una parte della nostra esistenza di umani. Ed è incredibile come in Matrix, cioè, ci fosse la vita reale, che era una vita dove si mangiava sbobba, e una vita invece dentro Matrix dove si potevano mangiare succulente bistecche. Ed è vero anche qui, nel senso che quando siamo sulla rete non c'è la crisi economica, non ci sono problemi di classe, non ci sono problemi razziali. Mentre invece poi quando usciamo, quando torniamo nei nostri corpi, i problemi continuano a esserci e continuano a essere anche sempre più pressanti. E quindi dobbiamo sì ragionare sul fatto che non possiamo fingere di star bene in una realtà fittizia. Dobbiamo fare in modo che, come dire, la realtà virtuale e la realtà concreta collimino. Dobbiamo fare in modo che siano in comunicazione tra di loro, dobbiamo stabilire un ponte di collegamento, di modo anche che la nostra esperienza non sia così completamente disincarnata, ma che sia invece un'esperienza quanto più densa, quanto più corporea possibile, proprio perché la mente è coestensiva al corpo e il corpo è coestensivo alla mente. Ricordo a tutti che il libro Nell'acquario di Facebook, la resistibile ascesa dell'anarcocapitalismo del collettivo Ippolita, si trova disponibile in libreria da Tuba al Pigneto, a Roma, mentre invece a Bologna è disponibile alla libreria Modo Infoshop e a Milano invece alla libreria Utopia. Per avere più informazioni su Ippolita potete andare sul sito internet http://ippolita.net e lì troverete il libro da sfogliare gratuitamente, oppure se volete comprare c'è il PDF che si acquista per 5 euro, oppure un EPUB che invece vi costa 7 euro. Ovviamente il testo si trova anche sui circuiti di file sharing, però se volete cercare di sostenere il nostro progetto, le nostre ricerche che sono assolutamente indipendenti, noi vi chiediamo di acquistare il libro cartaceo. Speak to me in will, space and time. Sometimes, please. Touch me in will, space and time. Sometimes, please. Speak to me in will, space and time. Sometimes, please. Not just via fake book and mind erase and cyber stalking. Touch me in real space and time sometimes, please. Not just via screens and keys and quasi quickies. Play in real space and time sometimes, children, please. Not just via modulated, replicated, simulated matrices. Read, sing, dance, go outside. Sometimes, please. I chat, I touch, I tune, iPod. I am right here. Hello? See me? Hear me? Feel me? Sometimes, please. I mean, really, feel me. My energy, my skin, my kiss, my heart, my guts, my insides, my slap on your face if need be, to jar you out of this compu coma you slipped into. Snap out of it. Sometimes, please. Squeeze some genuine unmachine assisted living into your busy day. Retrieve your thought process and sub-aerial conscience from the death grip of the mainframe. Unpixelate your brains. Sometimes, please. Speak to me in real space and time. Sometimes, please. please.